Avete presente quando ricevete una telefonata da qualcuno che non sentite da anni? E quella voce sembra appartenere a un'altra vita. È un po' come sentire il suono di quando avevate quell'età. E le immagini che evoca non sono sempre di festa. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Mi sveglio tutte le mattine alle 6:30. Faccio colazione, bacio mia moglie, le tocco la pancia come saluto nostra figlia, poi esco. Salgo nella mia vecchia Golf del 1998, mi faccio 25 minuti di strada per recarmi al lavoro. Di mestiere faccio il distributore di bevande, o come dice il titolare, facchino di bibite. È un lavoro molto duro, ma che mi permette di fare una vita buona. Alle 13 pranzo da mia madre, poi di nuovo al lavoro fino alle 19:20. Altri 25 minuti di strada per poter riabbracciare mia moglie e stare un po' in tranquillità. Tutti i giorni così. Per 5 giorni, sempre così. Niente che mi sconvolga. Oggi però mi è successa una cosa. Per la prima volta nella mia vita ho visto correre una lepre. Sì, una lepre. Mentre tornavo da una consegna da Prato, in direzione Pistoia, in quella poca striscia di campagna che è ancora rimasta, una lepre di colore rossiccio, con la folta coda sul grigio, correva. Gli orecchi abbassati all'indietro, il muso sporto in avanti per meglio tagliare l'aria, e quelle grandi zampe che la spingevano in avanti. Talmente veloce che sembrava levitare. Non sono riuscito a capire il perché di quella corsa. Mi ha dato l'impressione che corresse solo per il piacere di farlo. O forse correva semplicemente per sentirsi libera. Ecco, quella corsa lì mi ha emozionato e mi ha fatto pensare che per sentirsi felici basta poco, forse una corsa soltanto per il piacere di farlo, come quella lepre. La mia strada continuava e la lepre era sparita dalla mia vista. Io sono tornato ai miei pensieri e ho continuato la mia solita routine quotidiana. Ma oggi, differentemente dagli altri giorni, ho lavorato con un sorriso stampato sul volto. Non c'è una morale, non c'è nessun insegnamento. Semplicemente, vedere quella corsa verso nessuna meta mi ha fatto stare bene. Grazie alla lepre superveloce. Ciao, Massimo. Io sono qui, @radio24.it. Non so se vi capitano cose come queste tutti i giorni, come quella che è successa a Massimo. Sono cose piccole, che sono belle, per chi le vive e per chi le sente. Se vi capitano piccole storie e avete voglia di raccontarmele, io sono qui. Io sono qui, @radio24.it. Grazie a Massimo, per intanto. Sono le 16:11 minuti. Ieri, dopo questa mail, dopo aver ricevuto questa mail all'indirizzo del programma, invece all'indirizzo mio personale, ne ho ricevuto un'altra. Ed era la mail di un amico d'infanzia. Proprio uno di quegli amici con cui sei cresciuto. E se sei stato in un quartiere particolare di una città o in un paese particolare, ci sei cresciuto in quel pezzo di vita, in quel pezzo di territorio, che è da dove arrivi. E quando senti quella voce ti succede qualcosa. Insomma, Davide mi ha invitato, adesso ve lo racconterò meglio, ad un pranzo questo fine settimana e quindi probabilmente ci andrò. C'è però qualcosa di strano nell'andare a incontrare una persona che non vedi da... 20 anni, credo. 35... Sì, 15-20 anni. E quindi, come capita, ogni tanto avrei bisogno di una mano da voi. 800240024, oppure il solito numero è 349-238-6666. In questo periodo tra l'altro è molto facile grazie a Facebook. Io però vorrei evitare persone che si sono solo scambiate i messaggi su Facebook. Io vorrei sentire persone che hanno ritrovato un amico o un'amica di un sacco di anni fa. E vorrei sapere che cosa è successo in quell'incontro. Alcuni saranno andati bene, altri benino, altri male, altri malino, non lo so. Però vorrei sentire esattamente che cosa può succedere, così semplicemente per arrivare preparato. 800240024. Perché c'è qualcosa nell'incontro con una persona che tu non vedi da una vita che io non penso abbia a che fare con il "che strano, ci siamo rivisti dopo 20 anni eppure sembrava ci fossimo visti il giorno prima". Non credo che sia così. Credo che sia proprio il contrario. Credo che nell'incontrare una persona che non vedi da un sacco di anni ritrovi che cos'eri tu quando avevi quell'età. E quella roba può piacerti oppure no. Insomma, oggi è dell'amico ritrovato che vi racconto e che vorrei che mi raccontaste. 800240024 oppure 349-238-6666. Tutto questo accade, la mail mi è arrivata e l'incontro con questo amico che dovrò ritrovare domani accade perché è il compleanno di una persona molto cara. È il compleanno di mia sorella. Mi piacerebbe, se abbiamo tempo, Tiz, se chiamiamo mia sorella al volo, così le faccio i... Niente, Butta giù, è occupato. Ah no, suona. Suona? Ce l'abbiamo? Suona. Sarà. No, non suona, niente. È occupata, mia sorella non vuole gli auguri. Non fa niente, ci vedremo domani con lei e con l'amico ritrovato. Se invece avete ritrovato un amico e avete voglia di raccontarmelo, è 800240024 il numero da fare. Ve lo ripeto, Facebook va bene, Facebook però è anche un po' facile. Se invece ci sono altri metodi, per esempio mi è arrivata un messaggio prima sul profilo Facebook, giusto per rimanere lì. Alessia, ci vediamo poco, troppo poco. Io e la mia Stella, la mia compagna di banco per 13 anni, elementari, medie e superiori sempre insieme. Poi la vita, gli amori, i lavori diversi, ma una telefonata, un messaggino, una mail che arriva sempre inaspettata. Mi dice: scendi, sono qui. Mi riempie il cuore di gioia ed è come se ci fossimo lasciati un minuto prima. Appunto, no? Era di questo che parlavamo. Lei sa tutto di me e io so anche quello... E lo sa anche se non parlo. Alessia, 800240024 0024 oppure 349-238-6666. Io, il mio amico, lo ritrovo così. Mi ricordo che siamo in autunno quando è il compleanno di mia sorella. Il 22 ottobre è il compleanno di Tiziana e ogni 22 di ottobre realizzo che è ufficialmente autunno. Cioè, non che nei giorni precedenti io non lo sappia. È solo che sin da quando sono bambino mi sono sempre svegliato in quel giorno, realizzando che... Ah, giusto, ormai è autunno. Secondo me le stagioni assumono senso e significati diversi in base all'età. Davvero, per me l'autunno da bambino era un momento di incredibile malinconia. Cioè, io consideravo l'estate l'unica vera stagione degna di essere vissuta. Le altre erano solo una fase di passaggio verso il 21 di giugno, con la fine delle scuole, le vacanze, il mare e tutta l'estate davanti. Ecco, oggi invece l'autunno mi piace. Non lo so perché, credo per quel sapore letargico che porta con sé. Per l'illusione che in teoria potrei, anche io, starmene a poltrire al caldo mentre fuori tutto si addormenta lentamente. È chiaramente un'illusione, dovuta alle troppe pubblicità della vecchia Romagna con i due che bevono il brandy davanti al fuoco e la copertina sulle gambe. Del giorno in cui è nata mia sorella, mia mamma ricorda che era un 22 di ottobre ancora caldo. Quelle giornate che ti rammentano che l'estate esiste davvero e non è solo un inganno della memoria, che ci sono state giornate in cui andavi in giro in magliette e pantaloncini e l'aria era fresca la mattina ed era godibile perché di lì a poco sarebbe arrivato il caldo, quello che oggi fa veramente troppo caldo. Ecco, anche adesso sembra che l'estate non sia possibile. Adesso che fa già freddo e che l'autunno sta facendo il suo dovere e le strade e i marciapiedi sono pieni delle foglie che stavano sui rami. Sì, adesso a 35 anni l'autunno mi piace. È una bella stagione. L'aria ha odore di buono. In città non si percepisce molto, come non si percepiscono i grandi mutamenti della natura, se non per via della pioggia, della neve, ma anche solo a 4 km da qui, appena fuori dalla città dove inizia la campagna, ottobre odora di stoppie bruciate e di nebbia. Sa di fumo l'autunno, di qualcosa che brucia. Anzi, no, qualcosa che è bruciata e rimane all'umido, a fare odore di cenere. Sono un paio di giorni ormai che l'aria fredda spazza le strade dalle foglie, quelle che si erano stufate di stare sugli alberi. E poi l'autunno ha la luce, che se ne va via sempre prima. E non ci devo fare caso, altrimenti questa cosa mi fa impazzire. Mi fa impazzire il pensiero del tempo che si stringe, della luce che si affievolisce. Nel parchetto di fronte a casa mia vedo i lampioni che si illuminano al calare della sera. Come tutta l'illuminazione della città, i lampioni hanno dei sensori che misurano il momento in cui la luce è talmente bassa che serve luce artificiale e quindi loro si accendono. Ecco, il pensiero che quel momento lì, che è impercettibile agli occhi ma è solo a quei sensori, pensare a quel momento inafferrabile in cui un grado di luce in meno fa accendere la lampadina, che poi non è neanche un grado perché qual è l'unità della misura della luce? Vabbè, comunque, non so il perché, ma quel momento lì mi fa venire una malinconia infinita. E allora faccio finta di niente. Faccio altro, mi chiudo in casa, accendo le luci, alzo il volume della radio, mi faccio una doccia, mi preparo la cena, chiamo un amico. Poi apro il computer, controllo la posta e trovo una mail che non mi aspettavo. Forevermore. Ciao Matteo, ho avuto il tuo indirizzo mail da tua sorella. Come stai? Qui a Romentino tutto bene e tutto uguale, come sempre. Ho saputo che hai venduto tutto, che stai ripartendo da capo. Bravo! È una cosa che si dovrebbe fare, almeno una volta nella vita. Bravo! Anche se poi nessuno ha il coraggio di farlo. Una volta nella vita, anche se poi nessuno ha il coraggio. Da quant'è che non ci vediamo? Saranno almeno 10 anni. Saranno almeno 10 anni. Forse non te lo ricorderai più. Ma in questo periodo noi abbiamo sempre organizzato un pranzo nella casa che ho in campagna nel Parco del Ticino. E insieme a Fabio, Massimiliano e Paolo ci sarebbe piaciuto riaverti tra di noi. E magari con questa scusa festeggiare il compleanno di tua sorella. Si tratterebbe di sabato con moglie e fidanzate. Siamo già una ventina. È la solita festa autunnale a base di castagne. Che ne dici? Porta pure chi vuoi. Davide. Questa mail sembrava un messaggio dal passato. Avete presente quando ricevete una telefonata da qualcuno che non sentite da anni? E quella voce sembra appartenere a un'altra vita. È un po' come sentire il suono di quando avevate quell'età. E le immagini che evoca non sono sempre di festa. Da un po' d'anni a questa parte è molto più facile, grazie a Facebook ovviamente, no? Ricevete un messaggio da una persona che ha un nome che vi suona familiare. Entrate nel profilo, la prima foto magari non vi dice niente, magari neanche la seconda. Poi però quel viso ha qualcosa che conoscete, e quello che riconoscete è il tempo che è passato sulla vostra faccia, attraverso la faccia di quell'amico che ora ricordate. Perché ci avete passato l'infanzia con lui, e perché con lui avete vissuto delle cose che non dimenticherete mai. Abbiamo 14 anni, è un pomeriggio d'estate. La pianura sembra ribollire dell'odore dei tigli e del riso. Siamo in tre, io, Davide e Mirko. Mirko non è come noi, Mirko è ricco e spudorato. E il papà di Davide lavora nella fabbrica del papà di Mirko. In estate in campagna hai poche cose da fare, ma sembrano poter non finire mai. Si gira in bici per le risaie, si pescano le rane, si fanno i tuffi nel Naviglio, dal ponte della Cascina Rossa. Il Langosco è buio e brulica di alghe spaventose che ti afferrano le caviglie. Ci tuffiamo dal ponte uno dopo l'altro, a bomba. È una gara chi fa più spruzzi. Usciamo dall'acqua arrampicandoci sull'argine e ci dirigiamo verso il parapetto di nuovo. All'improvviso però sento Mirko che dice: «Ma va che schifo!» Alzo gli occhi e sul ciglio del ponte vedo un gatto. Tigrato, lungo. È appoggiato sul fianco sinistro. Ha la testa fracassata. Nel miscuglio di carne e pelo non si riconosce più la forma del muso. Al tuffo precedente però non c'era. Deve essere stato un trattore o un'auto. Ci avviciniamo e rimaniamo immobili. È uno di quegli spettacoli che non sai perché ma non riesci a non guardare. Mirko allunga un piede e cerca di girarlo sull'altro fianco. Davide allora ha un sussulto e gli urla di lasciarlo stare. Mirko lo guarda come se non avesse mai ricevuto un ordine in vita sua. E in un secondo lo stupore svanisce e diventa arroganza. Poi guarda Davide e l'ordine glielo dà lui. Pisciagli in testa. Davide, adesso gli pisci in testa. Io non dico niente, Davide nemmeno. Io però guardo Davide, che guarda Mirko, che guarda Davide. So che Davide non è molto coraggioso e so anche il perché. Suo papà ci tiene troppo all'amicizia con Mirko. Chissà mai che è entrato in confidenza. È importante avere un amico come lui. Trattalo bene, mi raccomando. E Mirko questo lo sa. Sa che Davide è figlio di un dipendente. In casa gli hanno fatto capire presto che può fare e avere tutto quello che vuole. È capito anche che la ditta è importante per il paese. Ed è importante per i suoi abitanti che in un modo o nell'altro con la ditta ci campano. Lo sa talmente bene che mentre fissa Davide gli dice: «Se non lo fai, faccio licenziare tuo padre». Ora io non so se Mirko lo possa fare davvero, e nemmeno Davide lo sa, però lui non ha mai corso rischi ben più piccoli di questo, figurarsi se intende correre di questo tipo. Davide tiene gli occhi fissi sul gatto, io sento le gocce d'acqua che mi cadono dai capelli bagnati sulla pancia, mi fanno venire i brividi, mi sembra di sentire quello che sta pensando Davide. Se lo sta immaginando, a cena papà, con la testa bassa, la mamma in lacrime, e lui con lo stomaco paralizzato. E poi i poster sulle pareti da staccare, il viaggio, il ritorno nel paese dei nonni, dove in fondo un lavoro si troverà, dove la vita costa poco e fa meno freddo, dove c'è il mare vero, non quello di risaie, dove si è sempre detto che prima o poi si sarebbe tornati, ma dove fino ad ora ci si era guardati bene dal farlo, salvo d'estate, per le vacanze. Capisco cosa sta pensando Davide. Perché rischiare tutto questo solo per orgoglio? Perché rovinare tutto solo per non fare una cosa che in fondo non fa male a nessuno, no? In fondo il gatto è morto, non se ne accorgerà nemmeno. E poi con una calma piena di sofferenza Davide abbassa la cerniera. E un momento prima di iniziare, si gira di tre quarti e senza nemmeno guardarci in faccia ci dice: però giratevi. Vedo un'occasione sui dépliant pubblicitari, è una TV. Il negozio è ad un'ora di macchina fuori mano, un po' fuori mano per me. Vado, prendo la TV, alla cassa incontro una mia compagna di scuola che non vedevo da 20 anni. Ci riconosciamo guardandoci negli occhi, una sensazione bella, non del tempo passato, ma del volto ritrovato. Dario, 800240024 oppure 349-238-6666, perché è degli amici ritrovati che vi racconto oggi, che mi piacerebbe mi raccontaste anche voi. Non a me personalmente, ma a mio padre è successo per merito di un salame di ritrovare un amico di marina militare che non vedeva da 40 anni. Ora, mi spieghi? Cosa vuol dire per merito di un salame? Cioè gliel'ha comprato, l'hanno, si sono trovati, l'hanno macellato insieme. Risentiti dopo 18 anni, mi piaceva a 15, dopo alcuni scambi di chat su Facebook siamo rivisti, siamo andati a letto insieme. Ma questa non vale. No, a letto insieme non vale. Se le hai, cerca delle foto di quei tempi insieme, insieme con la persona. A me è servito. Auguri a tua sorella, Gianluca della Versilia. A proposito di auguri a mia sorella, facciamo che adesso la troviamo, sta sorella, perché altrimenti sembra che non è vero che oggi compie 3. Suona? Hola. Se mette giù un'altra volta la prendo come un'offesa. Ma lei arriva al numero privato o arriva al numero privato? Ah, allora è per quello probabilmente. Cosa avrà da fare alle 4:30 al giorno del suo compleanno? Pronto? Pronto, Titti? Sì, ciao Teo. Ciao, ti disturbo? Sono e mi hai messo giù in una cartoleria. Scusami, niente, volevo solo farti gli auguri in diretta. Ah, ma dai, ma grazie, ma che onore, grazie. Ma quale onore? Ci vediamo fine settimana, Titti, ti mando un bacio. Ok, ti ringrazio, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. 80024 0024, dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo nell'abitacolo di una macchina. Si intravede il cruscotto e soprattutto si intravede il navigatore satellitare, che è bello attaccato al vetro davanti. Si vede il tergicristallo che è inchiodato proprio in mezzo al cristallo dell'automobile e fuori il diluvio. L'auto sta passando sotto il ponte, credo sia un'autostrada perché è a 2, forse 3 corsie. Di fianco c'è uno di quelle muraglioni in cemento armato, presumo, che tengono sulla montagna. Di fronte c'è della gente in moto, delle automobili e delle automobili, ma sta venendo giù il diluvio. E oltre al diluvio sta venendo giù un pezzo di montagna, perché proprio sulla parte destra della strada, questi muraglioni che dovrebbero proteggere dalla caduta della terra, c'è una cascata di quello che credo sia acqua e fango. Sono Cristiano Cavagna Sala, ho 41 anni e nella foto mi trovo in autostrada da ritorno alla Genova. La macchia marrone che vedete sulla mia destra è una cascata di acqua e fango. Io sono qui. Tra l'altro, se volete vedere la foto, è veramente spettacolare, perché sembra che di lì a poco dovranno chiudere l'autostrada. Credo che sia l'autostrada per andare a Genova, probabilmente, giusto? Dalle parti di Voghera, di Vittorio Mussini, appunto, che prima spiegava che Voghera è in Lombardia, non è né in Piemonte né in Liguria, come se ne avessimo detto altrimenti. Ah, e poi ha detto anche Lombardia su, Piemonte giù, e vabbè, qui scateniamo chiaramente tutti i lombardi e piemontesi. La trovate sul sito di Radio 24, che è radio24.it, alla pagina di Io Sono Qui, oppure sul profilo Facebook Matteo Cacci Io Sono Qui. Per i podcast invece, visto che molti me lo chiedono continuamente, i podcast li trovate in 3 modi diversi. Primo, sul sito di Radio 24, alla voce podcast, c'è un elenco in ordine alfabetico, andate su Io Sono Qui e ve lo scaricate. Secondo, su iTunes, è probabilmente la parte più comoda perché c'è un abbonamento. Terzo, Tiziano Bonini, molto gentilmente, tutte le sere, carica sul profilo Facebook del programma la puntata e ve la potete ascoltare così. Questo se volete riascoltarvela e non potete farlo in diretta. Altrimenti lo fate in diretta e mi chiamate all'800240024 per raccontarmi come è stato incontrare, in questo caso oggi, un vostro vecchio amico. Prima di farlo però ci sono un po' di messaggi da leggere, alcuni rivolti proprio a Bonini. Bonini è un mito, non ne sbaglia una, credo che si riferiscano alla musica. E infatti poi Chicco dice: ciao, mi dispiace ma mi avete venire voglia di ascoltare i Baustelle, quindi spengo e ascolto loro. Ale, quindi il merito va a Bonini anche di questo. Il salame, c'è la risposta al salame. Sapete del papà che ha incontrato un vecchio amico attraverso il salame? In che senso? Nel senso che una persona è venuta ad acquistare un salame in negozio da mio padre. Quel salame doveva essere regalato ad una persona che poi si rivelò essere la persona che mio padre non vedeva da anni. Tutto questo a 350 km di distanza. Mentre ringrazio anche gli ascoltatori di Radio 24 che hanno a che fare con la scienza, perché mi dicono che la luce si misura in candele. Però non sono, devono mettersi d'accordo. Allora, uno mi dice che la luce si misura in candele. La seconda è l'unità di misura dell'intensità della luce, è il lumen. Decidiamoci, cioè o è uno o è... Per me vanno bene tutte e due, non fa nessuna differenza, però altrimenti no. E poi la storia più triste e vigliacca che abbia mai sentito, spero che Mirko non sappia vostro amico. No, Mirko è stato indagato per delle tangenti al paese e adesso non so più che fine abbia fatto. Questa, diciamo, è stata la sua fine. 800240024. Invece andiamo da gente che ha ritrovato amici in una maniera rocambolesca, e direi che quello di Daniele da Pavia è proprio uno di questi casi. Pronto Daniele? Pronto, ciao Teo. Ciao, buongiorno. Io non sono di Pavia, sono di Turbigo, vicino al Ticino. Sei di Turbigo, come no? In questo momento sono a Voghera per lavoro, perché faccio musicista, quindi sto andando a incontrare la mia orchestra. Che cosa suoni? Io suono il basso in un'orchestra di Piacenza. Ma di mestiere lo fai? Sì, di professione. Ma scusami, le orchestre, l'orchestra di Piacenza, hanno il basso le orchestre? Ma certo. Ma il contrabbasso? No, suono il basso elettrico dal vivo. Il basso elettrico dal vivo. Guarda, non vado oltre perché altrimenti faccio qualche figura, sì, sicuramente. È orribile. Sono a Voghera per incontrare il pullman dell'orchestra, praticamente. E sali sul pullman dell'orchestra? Sì, cioè, e oggi suoniamo dalle parti di Torino. Ah, scusami, appuntamento a Voghera dove? A Voghera all'autostrada. Al casello dell'autostrada? Al casello dell'autostrada, sì. Senti, ma e tu quindi fai quello che si definisce il turnista? Ma diciamo l'orchestrale in questo momento, anche se faccio musicista da tanto tempo, da quest'estate ho iniziato quest'altra attività. Ah, ok. E tu provi in casa, c'hai una sala prove? No, in casa studio, la sala prove l'abbiamo a Piacenza nella sede dell'orchestra. E poi basta per farmi i fatti tuoi, e quante ore al giorno tu stai attaccato allo strumento? Studio personale a casa mia, un'ora e mezza quando posso, anche due, a seconda. Questo tutti i giorni? Del tempo, sì, tutti i giorni. Ma sabato e domenica compreso? Assolutamente sì, anche se solitamente sabato e domenica sono in giro a suonare. Ah, giustamente. Daniele, siamo anche abbastanza lontani in effetti. E invece... Domani siamo a Macerata. Ah, però... Tanto per star vicino. E poi? E poi il giorno dopo siamo alla Spezia. E vabbè, dormiremo in pullman, tanto per rilassarsi. Sempre orchestra, stiamo parlando sempre dell'orchestra di Piacenza. È un lavoro fisso quello, ormai. Sono 20 serate al mese. Ah beh. E quindi sono impegnatissimo. Senti Daniele, invece veniamo all'amico che hai ritrovato attraverso un articolo sul giornale. Ho fatto un amico per... Molto casualmente, perché io praticamente ho abitato a Novara fino a quando mi sono sposato. Sì. E io questo amico... Ma noi ci conosciamo, Daniele, scusami? Può essere, non lo so. No. Io ho avuto anche un bar a Novara per 12 anni. Boh, vabbè, insomma, niente, andiamo avanti. Tutto può essere. Ok, quindi. Ok. E niente, praticamente mi è capitato di più volte di pensare a un amico che non vedo da tanto tempo e che faceva parte di un quartetto in cui giravamo sempre dai 16 ai 20 anni, periodo dell'oratorio. Ed eravamo sempre insieme tutte le sere, anche fino a ora tarda. E questo amico non l'ho più incontrato. Essendo di origine argentina, questo amico, ero convinto che fosse o ritornato in Argentina o comunque si fosse allontanato da Novara, perché comunque anche su Facebook non lo trovavo. Sì. Poi, e oltretutto non ho neanche mai pensato di chiedere al terzo amico in comune, con cui invece ho suonato più volte e che vedevo anche abbastanza spesso in fondo. Sì. Però non mi è mai venuto in mente. Poi un giorno ho aperto una pagina della stampa in cui si parlava della Confcooperative. E ho scoperto che questo mio amico era ancora a Novara, è presidente della Concooperativa e c'era la sua foto. Ah, ok, in questo senso tramite... Senti, com'è andata a finire, Daniele? Vi siete rivisti? Allora, tramite la foto, visto che aveva ancora il nome come nome argentino, per quello non lo trovavo su Facebook, allora ho subito chiamato il terzo amico in comune e si è riuscito a organizzare una cena. Che sensazione hai avuto dopo averlo visto dopo così tanti anni? Ma guarda, è stata una situazione molto bella, ti devo dire. Anche la cena è stata... Nel senso, la situazione comunque si è stemperata dopo 3 minuti. Ero con mia moglie, lui con sua moglie, il terzo amico da solo, perché era convivente, non poteva venire. E devo dire che è stato, dopo 5 minuti era come quasi non essersi mai mollati di vista, anche se in realtà erano 17 anni buoni che non ci vedevamo. Certo, certo, certo. Senti, l'unica cosa, forse l'unico in realtà che ci è rimasto, cioè che ha avuto un'impressione un po' strana, posso essere stato io, perché io sono quello dei tre che è cambiato di più nel tempo. Perché tu cosa facevi? Vabbè, io ai tempi ero l'unico dei tre che non suonava. E oltretutto ero un tipo molto allegrone, quindi stavo in giro sempre fino a sera. Invece adesso sei un tristone, Daniele. No, non sono un tristone, sei stata una persona molto seria, stranamente. Perché pur avendo avuto un bar, pur suonando, mm-hmm. vedendo tantissima gente, è molto difficile vedermi ridere, quello sì. Beh, Daniele, magari mettiti d'impegno. Ti saluto e buona serata, grazie. Grazie a te, buona ciao, grazie. Ciao, ciao. Andiamo a Milano da Carlo. Pronto, Carlo? Ciao. Ciao, tu non hai ritrovato un amico? No. Io ho ritrovato la mia tata di quando ero bambino, dopo 15 anni, una cosa simile. E già Vittoria Mussini si sta sciogliendo come un panetto di burro. Scusami, da quanti anni avevi quando l'hai ritrovata? Dunque, direi quasi 5 anni fa, quindi 25, e non la vedevo più da che avevo 10 anni. Ma perché lei aveva cambiato città? No, lei si era sposata, lei era fissa a casa nostra. Sì, cioè quindi viveva con voi proprio? Si viveva con noi e io stavo sempre con lei perché mia mamma lavorava tutto il giorno, quindi io stavo sempre con la mia tata Linda. Come si chiama? Linda. Linda, sì. Era filippina ed è appena arrivata in Italia, per cui parlava pochissimo, ero piccolino. E ci siamo molto affezionati proprio uno all'altro perché lei aveva lasciato la sua famiglia. Senti, ma scusami una cosa, ma una persona che cresce con una tata per 15 anni, per 5, scusami, dai 5, scusami, 10 anni. Dai 5 ai 10, vabbè, comunque non sono pochi. Tutto questo porta qualcosa di diverso nel rapporto con tua madre? Cioè il fatto che tu cresci con una persona che non è della tua famiglia e che è molto diversa, che parla un'altra lingua? No, affatto, assolutamente. E quando l'hai rivista? Beh, quando l'ho rivista è stato ritornare indietro davvero di tanti anni. È stato veramente un bel colpo. Ma lei dove l'hai trovata? Eccetera. Su Facebook, no? No, mi ha telefonato lei, perché dopo che lei andò via da casa nostra, si sposò con una persona italiana, e poi ritornarono nelle Filippine e ritornarono in Italia dopo 10 anni, e fu quando lei mi chiamò. Carlo, ti ringrazio molto e buona giornata. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Andiamo a Padova, ce l'abbiamo Giulio da Padova, ce l'abbiamo Giulio da Padova. Pronto Giulio? Buongiorno. Buongiorno, come stai? Bene, tu? Io bene, bene, oggi me la cavo. Senti, dopo 30 anni hai ritrovato un amico con cui eri nei Carabinieri. Esattamente, lui dormiva nella branda sopra di me, ci siamo persi una notte nebbiosa in quelle che venivano chiamate fughe. Cioè? E per scappare da in licenza 24 ore senza permesso. E un giorno sono in un ristorante importante della nostra zona, prendo un caffè e vedo questo signore. E capiamo reciprocamente che io sono io e lui è lui. Sì. Lui è diventato un architetto famoso. Io importo vini francesi e ha costruito la mia cantina ed è stata una sorpresa incredibile e da quel momento ci siamo frequentati con una certa assiduità ed è stato splendido ritrovare quell'autenticità dei rapporti che sono un po' più difficili quando si ha 50 anni e poi subentrano gli interessi e altre cose. E questo è bello perché siamo diventati adulti, ma c'è una franchezza splendida in un rapporto come fosse le amicizie con gli adolescenti. Giulio, scusami, tu sei in macchina, dove stai andando? Io adesso sto andando nel mio ufficio, nel mio magazzino di importatore di vini francesi. Giulio, grazie mille per la tua storia. Ciao. Buona giornata. Ciao, grazie. Ciao. Allora, abbiamo capito la luce, scusatemi, questa roba mi preme. L'unità di misura della luce intesa come luce solare è velocità fratto tempo. La luce intesa come corrente è in volt. Insomma, ancora non ci sto capendo niente, però mi scrivono: il lumen sta per candela. La velocità, la misura è il lumen. Le candele misurano la luminescenza delle lampadine al tungsteno. La misura dell'intensità luminosa è il lumen definito da ANSI. Veramente. Vi adoro. E poi un ultimo messaggio, Annalisa. Io faccio un ragionamento diverso. È da tempo che penso che nessun personaggio della mia infanzia mi ha mai contattato su Facebook. Non rimango nella memoria delle persone. Non riesco a costruire legami. Boh, in questo momento della mia vita ho cercato una persona della mia infanzia e sembra svanita. Ho interpretato tutto come un segno del destino. Annalisa, guarda, ti lascio il fine settimana per pensarci. E lunedì io sono qui.